favole di storie fantastiche dal genio di Leonardo da Vinci. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino per paroledistorie.net. Il granchio ingannatore e i pesciolini. Un granchio si accorse che molti pesciolini, anziché avventurarsi nel fiume, preferivano aggirarsi prudenti intorno ad un masso. L'acqua era limpida come l'aria e i pesci nuotavano tranquilli, godendosi l'ombra e il sole. Il granchio attese la notte e, quando fu sicuro che nessuno lo avrebbe visto, andò a nascondersi sotto il masso. Da quel nascondiglio, come un orco dalla sua tana, spiava i pesciolini e, quando gli passavano vicino, li acciuffava e agnam, se li mangiava. «Non è bello ciò che stai facendo», brontolò il masso. «Approfitti di me per uccidere questi poveri innocenti!» Il granchio non ascoltò nemmeno. Felice e contento, seguitava a catturare i pesciolini, trovandoli di un sapore prelibato. Ma un giorno, all'improvviso, venne la piena. Il fiume si gonfiò, investì con grande forza il masso, che rotolò nel letto del fiume, schiacciando chi? Il granchio, che gli stava sotto. Avete ascoltato Favole di storie fantastiche dal genio di Leonardo da Vinci. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Paroledistorie.net.